Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Tra le 14 mostre presenti nella rassegna Reportage Atri Festival, che si svolgerà dal 17 al 20 giugno nella cittadina abruzzese, ce n'è una dedicata ad Anna Maria Borghese, moglie del principe Scipione Borghese, e alle foto da lei realizzate nel corso della sua lunga attività di reporter. Ha anticipato i tempi e il tempo, insofferente agli scarti di velocità, si è vendicato, rimandando di un secolo la scoperta di questa straordinaria fotografa. Sono passati 100 anni da quando la principessa Anna Maria Borghese, moglie del principe Scipione Borghese, prese in mano la sua prima macchina fotografica e fu subito un incontro moderno, alla pari. Lei, una donna al vertice del bel mondo, e l'altra lei, una camera box della Kodak, fedele compagna nella conquista di un mondo vastissimo, non solo familiare, ma aperto alla cronaca di ogni latitudine. Per quasi un secolo, la storia di questo sodalizio e le immagini che ha prodotto, così sciolte e meravigliosamente composte, così innovative per il panorama di inizio Novecento, sono rimaste chiuse nel riserbo degli eredi e nella mansarda di un casale di campagna. 60 album di cartone, senza stemmi né decori tardo-gotici, per un totale di 5.000 scatti, che ricostruiscono la vita, i viaggi, le imprese, gli slanci di un interprete d'eccezione non solo per titolo nobiliare, ma per talento. Spetta a Mario Peliti, editore, il plauso per aver riportato alla luce questo magnifico tesoro. Sua l'intuizione di trovarsi di fronte a un nuovo autore della fotografia italiana. Sua la selezione di 175 immagini che dal 17 giugno, in occasione del Reportage Altri Festival, risplenderanno nella mostra Racconto di un'epoca, fotografie dagli album della principessa Anna Maria Borghese, a cura di Maria Francesca Bonetti, responsabile delle collezioni fotografiche dell'Istituto Nazionale per la Grafica. Ma chi era dunque questa nobilissima reporter, anche di guerra, dilettante solo per convenzione, che ha viaggiato in Persia, Siria, Egitto, Uzbekistan, Russia, Cina, Giappone e che ha immortalato la marcia su Roma e i riti dell'aristocrazia, dalle gite in campagna alla caccia alla volpe, attraversando ogni genere fotografico, ritratto, natura morta, interni di palazzo e grandi spazi di civiltà lontane? Donna Anna Maria nasce il 23 marzo del 1874 nel castello di Montallegro, figlia del duca Gaetano de Ferrari e dell'arciduchessa russa Maria Annenkov. Il primo orizzonte da esplorare è Isola del Garda, proprietà di famiglia dalla fine dell'Ottocento. Un mondo a sé, intimo, sereno, solitario, che aveva già incantato Francesco d'Assisi nel suo viaggio di ritorno da Oriente. Nel 1895 Anna Maria sposa il principe Scipione Borghese. Da Parigi, dove nascono le due figlie Santa e Livia, da Mosca, dove è vicinissima alla corte di Nicola II, e da Roma, dove è di casa, la principessa torna volentieri sul lago, tra i giardini dove crescono piante esotiche e corrono felici i suoi cani, Jack, un Jack Russell, e Tristano, un levriero russo. Al 1898 risale la prima foto, scattata a Masevar, in Ungheria, nella tenuta della madre del principe. Una scena di campagna, due personaggi di schiena, una donna al centro che si ripara dal sole e i suoi occhi guardano quelli della principessa, così vicini. Nasce un filo di luce, di intesa, e noi, tenendolo tra le dita, possiamo quasi ripercorrere i passi di questa fotografa che ha scelto fin dai suoi primi scatti una distanza non di sicurezza, ma di scoperta, di ascolto, di partecipazione. Passi silenziosi per non disturbare la scena e veloci per cogliere l'attimo di armonia che riemerge improvvisamente dal caos. Un'immagine tra le tante, virtuosistica nella tensione a dominare l'indistinto. È un giorno d'inverno sul lago ghiacciato del Bois de Boulogne, profili in primo piano e a segnare la profondità un caleidoscopio di figure nere. Al centro una sedia vuota, presenza misteriosa, attesa o invito ad entrare in scena. Poi arriva l'estate, altra foto, e l'inquadratura è un intreccio geometrico di sartie, vele e marinai. Soffia il vento della modernità, si prende il largo. Nel 1900 Anna Maria segue il marito in una serie di viaggi in Oriente, da cui Scipione Borghese trarrà il suo volume In Asia, Siria, Eufrate, Babilonia. Nel mirino della sua Bullseye Kodak, senza pretese tecnologiche, con quella piccola maniglia che la trasforma in una borsetta da passeggio, la principessa inquadra le rovine di Palmira, Baghdad e la poltrona dello Shah, quindi Bukhara e Samarcanda. Sotto il sole che arroventa le pietre appare un nuovo personaggio, l'ombra. E la fotografa vi entra senza esitare e ne fa oggetto di scena nei ritratti agli interni persiani e di nuovo domestici al Garda. E ovunque in questa zona scura sembra trovare quiete e confidenza. Si torna a casa, altre istantanee, Scipione atletico che salta la corda sotto gli occhi della figlia e poi la contessa Nora Balzani, in levitazione tra le pieghe di un abito bianco. E spostandosi a Roma, c'è il tempo per ritornare nei saloni di Villa Borghese, un tempo dimora di famiglia, poi ceduta allo Stato nel 1901. Una porta socchiusa e la principessa, con infinita discrezione, ritrae le statue del Bernini, l'Apollo e Daphne, il David. A riportarla al presente è un'altra sfida, la bonifica dell'agro romano, voluta dal marito, deputato del Partito Radicale dal 1904 al 1913. Insieme visitano i villaggi dei contadini, le capanne di paglia, le nuove abitazioni. Di nuovo insieme, nell'aprile del 1907, partendo in nave da Napoli, la coppia raggiunge Pechino e durante la traversata Anna Maria fotografa a Suez, a Ceylon, a Singapore e a Kyoto. Nell'impero celeste sbarcano in quattro, lei, il marito, l'Itala, la macchina con la quale Scipione Borghese vincerà la Pechino-Parigi, ed Ettore Guizzardi, leggendario meccanico e autista. Pochi giorni dopo li raggiunge Luigi Barzini. È lui a riportare nel suo resoconto la presenza della principessa, impegnata accanto a Scipione nei sopralluoghi al percorso. La principessa Anna Maria, scrive l'inviato del Corriere, insieme a una signorina amica lo aveva accompagnato nell'aspra cavalcata e le due signore, munite anch'esse di bambù misuratori, avevano lavorato come semplici agrimensori alla verifica delle minime larghezze. E venne il giorno della gara, il 10 giugno 1907. Sull'auto salgono in cinque, Don Scipione, suo fratello Don Livio, chargé d'affaires per l'Italia a Pechino, Guizzardi, Barzini e Anna Maria. Don Livio e la principessa lasceranno il gruppo alla prima tappa, a Nankou. Pochi giorni, quanto basta per fotografare i contadini nelle risaie, l'Itala impantanata e i coolies che la tirano fuori. Immagini freschissime, dinamiche, mai in posa. Per spiegare la sete di avventura della moglie, il principe ricorda all'inviato: la principessa ama talmente i viaggi che pur di viaggiare andrebbe persino in ferrovia. La Transiberiana, per esempio, e negli album appaiono le fotografie del passaggio sullo Enisei e da lì fino a Mosca. Ma di tutti i viaggi, quello che forse lascia più segni nello sguardo di Anna Maria è il viaggio nel dolore degli altri. Dai terremotati di Avezzano nel 1915 ai soldati in guerra che la principessa segue in prima linea come Croce Rossina, riprendendo le trincee, le operazioni, fino a fotografare addirittura i resti di un intestino asportato. In un raro momento di tregua, Anna Maria si lascia sorprendere seduta su una panca, le maniche arrotolate, il corpo per metà riscaldato dal sole. Il volto è severo, raccolto, forte. Un volto scolpito nella roccia. A margine di una fotografia che ritrae una scogliera tra le onde, la principessa, scomparsa improvvisamente a Isola del Garda nel novembre del 1924, scrive citando Marco Aurelio: «Sì, come lo scoglio su cui si infrangono incessantemente i flutti, saldo, immobile, e intorno ad esso finisce per placarsi il ribollire delle acque». Tra le onde di questo secolo, nell'incessante vendetta del tempo, la memoria di famiglia è rimasta salda, e grazie a lei, oggi, abbiamo una grande donna e una grande fotografa in più. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Laura Leonalli dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Uno studio realizzato recentemente dimostra come una dieta eccessiva possa portare all'incapacità di perdere peso. Dieting, quando la dieta è una droga e la vita ruota attorno alla dose quotidiana di rinuncia. Accade a molti, a donne e adolescenti soprattutto, che dopo mesi di sacrifici sono dimagrite con il fai da te. Poi hanno riacquistato peso e così hanno ricominciato a non mangiare. Un tira e molla che ha spalancato loro le porte dei disturbi alimentari e della dipendenza, che parte dalla volontà, apparentemente innocua, di perdere un paio di chili e finisce con la necessità di infliggersi un regime calorico costantemente ridotto. Perciò si vive rifiutando inviti a cena, comprando soltanto light, contando calorie, trascorrendo intere giornate a bollire intrugli e a bere pozioni depuranti. Un'esistenza complicata e pericolosa, fatta di rigore durante i pasti e di controllo fuori, e poi di scarsa nutrizione, basse difese immunitarie e di fame. Il momento delle grandi abbuffate arriva inevitabilmente, con loro il senso di colpa. Così si continua a sforare, si riacquista peso e il gioco è fatto, si ricomincia la dieta. Un comportamento micidiale dal nome spiritoso, effetto yo-yo, che ha ripercussioni sul fisico e, si è scoperto, anche sulla mente, crea dipendenza. A verificarlo, due ricercatori italiani emigrati in America, ora professori alla Boston University, Valentina Sabina e Pietro Cottone. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PNAS. L'affamarsi è contro natura, dice Giovanna Cecchetto, presidente dell'ANDID, Associazione Nazionale Dietisti. Rigide restrizioni adottate per dimagrire in poco tempo alterano il metabolismo, che rallenta e smette di bruciare grassi. La conclusione, paradossale, è l'incapacità di perdere peso. Perciò il corpo ingrassa solo a buttar giù una foglia di insalata e il pensiero complice non dà tregua. Rimanda immagini, fa sentire la voglia irrefrenabile di torte al cioccolato e tagliatelle al ragù. Siamo fatti così, è una questione biologica, continua il presidente dell'associazione. Diete prolungate annullano il senso di fame. E se il nostro organismo è stato a regime troppo a lungo, sente la spinta incontrollata verso il cibo. Una reazione alla fame dal sapore di vendetta. Un fatto naturale che accomuna uomini e animali. I ricercatori hanno scoperto che nel cervello dei topolini di laboratorio l'alternanza di abbuffate e digiuni genera lo stesso meccanismo indotto da cicli di astinenza e di intossicazione da droghe. I ricercatori hanno scoperto che nel cervello dei topolini di laboratorio l'alternanza di abbuffate e digiuni genera lo stesso meccanismo indotto da cicli di astinenza e di intossicazione da droghe. È ciò che accade negli esseri umani. Dopo un periodo di dieta si sente il bisogno di uno strappo alla regola, meglio se con il piatto preferito, un cibo goloso, proibito. L'organismo, tenuto a stecchetto, trattiene il nutrimento, grassi e zuccheri compresi, per il timore di restare a digiuno. Ma non si accontenta, ne vuole di più. E come il drogato in crisi di astinenza, la mente riaccende la voglia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Lisa «È la dieta la mia droga», dalla stampa del 6 giugno.